sta emergendo anche nel nostro paese l'idea che per affrontare la crisi e il peso che la crisi fa sentire presso i ceti popolari o quelli che vengono considerati ceti popolari, si debba in qualche modo mettere in secondo piano la questione dell'immigrazione. Diciamo che in una maniera non formalizzata mi sembra che questo atteggiamento però in qualche modo stia emergendo. È un risultato di lungo periodo, così potremmo dire, di una crisi culturale che si vede in Europa perlomeno da 20-25 anni, quella che qualcuno lo ricorderà perché erano atti simbolici di grande rilievo e non soltanto simbolici, che vide al primo manifestarsi, ai primi successi elettorali del Front Nazionale in Francia, l'allora Partito Comunista Francese, oggi pressoché scomparso, diciamo, dalle urne, cavalcare in alcune banlieue, le allora banlieue rouge della capitale francese, le proteste per esempio contro la costruzione di nuove moschee, eccetera eccetera, sindaci che guidarono con le ruspe il tentativo di cancellare i luoghi di culto, eccetera eccetera. Cioè l'idea che in qualche modo si dovesse negare l'affermarsi di nuove contraddizioni, di nuovi protagonisti sociali, a fronte di, in qualche modo, di una difesa di quelle che erano considerate le classi di riferimento, i soggetti sociali in cui la sinistra si era mossa fino a quel momento. Ecco, qualcosa del genere, ripeto, anche se in termini molto accennati, talvolta comincia a farsi sentire anche in alcune periferie, e ovviamente poi ci sono i casi macroscopici delle politiche di centrosinistra in tutta Europa, e oggi, diciamo, è storia recente, insomma, le ultime dichiarazioni che annunciate del libro pubblicato in questi giorni da Matteo Renzi, che rimandano proprio a questo, l'idea che anche il centrosinistra poi parli in qualche modo come le destre, le estreme destre. C'è chi dice aiutiamoli a casa loro, Renzi, ma c'è anche qualche politico del PD che ha detto che non ci si deve, non si può fare gli schifiltosi rispetto a slogan come prima gli italiani, perché poi è questo che pensano i nostri elettori, è stato detto insomma da più di un esponente del PD. Tu prima facevi riferimento alla situazione francese in occasione del ballottaggio tra Le Pen e Macron. Il filosofo Diego Fusaro disse che chi avrebbe sostenuto Macron avrebbe fatto il gioco del capitalismo, quindi Fusaro si pone poi spesso in chiave antimigratoria, apparentemente così da sinistra, e anche Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, ha parlato di una sorta di dumping salariale pianificato con l'arrivo dei migranti. Siamo di fronte a fenomeni di rossobrunismo? Beh, diciamo che in particolare Fusaro ha ormai valicato ogni sorta di barriera culturale e politica, per cui si ritrova molto spesso ad avere come interlocutori privilegiati gli ambienti della destra e dell'estrema destra. Ricordo solo recentemente, negli ultimi mesi, la sua partecipazione tra gli ospiti d'onore di un'iniziativa, di un convegno che aveva per gli organizzatori anche dei presupposti di serietà e di importanza, gestito, organizzato da Fratelli d'Italia. Ma sì, diciamo, qual è l'atteggiamento culturale di coloro che su questa base poi sono disponibili spesso a fare dei tratti di strada o, come dire, a ragionare di alleanze al di là della destra e della sinistra, ciò che si può tradurre, diciamo, nell'orizzonte rosso-bruno cosiddetto tale, cioè il fatto che in qualche modo vi sia un nemico principale, chiamiamolo così, che è il capitalismo, che tutte le contraddizioni ulteriori vadano derubricate a conseguenze del male maggiore, che è lo sfruttamento, eliminando qualunque dialettica, sulle radici anche sociali della democrazia, ciò per cui per molto tempo si è considerato che sta il fascismo e il nazismo come una semplice variante del capitalismo, non capendo che anche in quella stagione, come si è visto anche in epoche più recenti, dentro il modello sociale dominante capitalistica si possono insinuare delle contraddizioni e delle guerre, e come anche il capitalismo può avere diverse facce e non tutte consentono la dialettica democratica, l'espressione sebbene parziale della volontà popolare, ma si trasformano in vere e proprie dittature. Qual è, diciamo, il tema perciò per molti di queste figure? L'idea che in qualche modo i fenomeni migratori siano favoriti per mantenere bassi salari, per ricattare la manodopera, il mondo del lavoro, quel che resta della classe operaia nell'Occidente, che in qualche modo i migranti siano da questo punto di vista uno strumento in qualche modo del grande capitale. C'è da dire, da segnalare, come queste valutazioni, che si vorrebbero pseudo-marxiane per coloro che le avanzano, in realtà si saldano compiutamente con le teorie vagamente cospirative cospirative che muovono invece dalla destra radicale, per cui tutto il processo di globalizzazione e i flussi migratori di questi anni altro non sarebbero che l'effetto di una grande manipolazione che vuole sì ridurre anche i diritti, come dicono sempre più spesso gli elementi esponenti delle destre sociali in tutta Europa e anche i neofascisti in Italia, ridurre diciamo i diritti acquisiti dai lavoratori, ma soprattutto cambiare il volto identitario del vecchio continente, per cui alla fine teorie cospirative trasformate o vendute come analisi pseudosociali finiscono per mostrare la corda e assomigliare drammaticamente invece alle teorie cospirative pure e semplici, quelle per cui c'è un grande manovratore e c'è una minaccia che da sociale, politica e culturale si trasforma via via sempre più evidentemente in modo razziale. Non c'è il rischio che anche forme genuine di anticapitalismo poi sfocino più o meno apertamente in nazionalismo? Il rischio c'è, tutta la retorica di questi ultimi mesi e anni forse sulla esistenza e possibilità che un cosiddetto populismo di sinistra sia l'antidoto al successo dei xenofobi, allo spostamento verso destra delle società europee, indica qual è il rischio. Il rischio è proprio quello, cioè che non si tenga conto, non si voglia vedere il contesto in cui si operano le migrazioni, in cui si operano diciamo le forme di sfruttamento globale che producono, tra l'altro, oltre al desiderio, la volontà di libertà che muove gli uomini in ogni angolo del pianeta, che muove le migrazioni. E sostanzialmente c'è in questo tipo di analisi una sottovalutazione evidente, cioè il pensare che il ritornare alla dimensione statuale, all'identità degli stati, anche quando non vengono, il loro vessillo non è quello della nazione, possa ricondurre a un territorio conosciuto dove vi sia una possibilità di rivendicazioni, di contropotere, si dice, da parte di alcuni, più forte che sulla dimensione globale, non capendo che diciamo non è solo la storia del Novecento ma l'intera storia degli stati che ci indica come dentro quel contesto si annidino poi i peggiori umori, il risentimento che cova in questi anni e che si trasforma in xenofobia, e non è da questo punto di vista che un pallido eco di ciò che il risentimento, la ricerca del capro espiatorio e la volontà di indicare in una parte della popolazione la causa del proprio malessere ha prodotto nella storia d'Europa. Quanti da sinistra evocano il ritorno agli stati nazionali dimenticano questa che è stata una pagina determinante e non capiscono che l'unica chance vera che c'è, diciamo, per un orizzonte di libertà, come anche per il pensiero critico, è quello di pensarsi dentro i flussi della globalità, dentro i processi internazionali, e lì radicare, dal mio punto di vista, le forme del conflitto, delle rivendicazioni, della possibilità di conquista di spazi di libertà.